Ciao, ciao, Brambilla, Bossi e Frattini, Fitto e Sacconi e Calderoli, Bondi e Tremonti, Letta e Rotondi scompariranno da Ballarò. Immancabile dallo Zapping TV ieri sera, Fiorello col suo show che si segna il ritorno in Rai, così ha sancito anche lui il cambio di governo e non si è risparmiato battute. Dobbiamo essere contenti perché abbiamo un nuovo governo. Lunedì scorso non ce l'avevamo e invece adesso ce l'abbiamo proprio completo, certo, un po' più cupetto rispetto al governo precedente. Questo qui sono un po' più seroso. Pensate che hanno fatto la foto di governo, quello ufficiale, era a colore, uscita in bianco e nero. No, per farvi capire. Perché sì, perché non sono un po' come, capito? Sono cupetti, c'è professor Monti, però professor Monti è uno che è amato dalle banche, quindi questo ci può far pensare che ci può far uscire dalla crisi facilmente. Quello è talmente amato dalle banche, pensate, Monti quando cammina passa davanti a un bancomat, i soldi escono da soli, ciò, così. Però bisogna anche stare attenti, perché loro non sono politici, sono, come abbiamo detto, ciao Chiara, sono tecnici, quindi non sono politici. La mia paura è quella che poi, sai, quando vai lì a Palazzo Chigi ti lasci un po' fagocitare dalla politica, loro sono professori, capito? Dall'aula magna al magna magna, poi è un passo, quindi attenzione. Invece il nostro governo, che non c'è più, devo dire, era un governo un po' più, come possiamo dire, folcloristico, più allegro, allegrotto. Ma piove, minchia come piove, governo. Solo un assaggio di prima edizione, tra poco le prime pagine dei giornali. Prima edizione. Sono le 6 e 17 minuti, puntualissimi questa mattina. Ancora buona giornata, buon martedì da Anna Migliorati. Pronti con i quotidiani in edicola per vedere quelli che sono i temi di questa mattina. 3 sostanzialmente gli argomenti che dominano le prime pagine. Già vi anticipo ovviamente le questioni economiche, e poi la difficile situazione in Egitto, al Cairo, dove ci sono nuovi scontri, e quello che abbiamo definito poco fa in GR24 un banco di prova di tensione per il governo Monti, vale a dire la partita per il contratto Fiat, disdetto da gennaio prossimo dal Lingotto. Allora, cominciamo la carrellata delle prime pagine del Sole 24 Ore questa mattina. Lunedì nero per borse e spread, così titola il Sole 24 Ore. Bruxelles vuole più poteri di intervento diretto e di sanzione su debiti e deficit. A fianco il Lingotto, Fiat disdetta dal 2012 gli accordi sindacali in tutti gli stabilimenti, no della FIOM, due le analisi che trovate questa mattina sulle pagine del Sole 24 Ore, la sfida sulla frontiera produttività e poi senza uscita la via giudiziaria FIOM, di sicuro una partita solo agli inizi. Corriere della Sera, le borse perdono altri 194 miliardi, questa è l'apertura del quotidiano di via Solferino, Monti misure specifiche in tempi brevi, Obama telefona, ho fiducia, ma Milano ieri la piazza peggiore in Europa, il crollo innescato dai timori su Stati Uniti e Francia. Di Stati Uniti parleremo tra poco con la supercommissione che davvero sembra destinata ormai al fallimento, come dicevamo anche in GR24. Anche qui paglio centrale dedicato alla Fiat, la Fiat dà la disdetta agli accordi sindacali, a questa dedicata questa mattina anche la vignetta di Giannelli con Marchionne che dà fuoco sulla torcia della Statua della Libertà agli accordi sindacali, la fragile stagione dell'industria e il commento di Dario Di Vico. L'immagine a centropagina del Corriere della Sera, le stragi, il caos, i giochi nascosti, parliamo dell'Egitto col governo che offre le dimissioni ai militari. E poi La Stampa, borse in caduta libera, Obama chiama Monti, fiducia nell'Italia, Piazza Tahrir travolge il governo anche qui, Fiat disdice gli accordi sindacali anche su La Stampa, ecco i favori ai big della politica, c'è anche l'inchiesta ENAV sulla prima pagina del quotidiano di Torino, parla l'ex consulente di Finmeccanica, il presidente Guaglini sapeva, e anche questa è una bufera di cui molto si parlerà. Una segnalazione dalla prima pagina della Stampa: oggi entrano in vigore le nuove norme europee sulle etichette alimentari, gli europei sapranno cosa mangiano, già vi anticipo che ne parleremo anche noi questa mattina a prima edizione. Il Messaggero, Monti sì a Roma Capitale, questa è l'apertura del quotidiano romano per il quale la notizia ieri si attendeva, e poi centro pagina, scontri e morti in piazza, il governo lascia, anche qui l'immagine degli scontri in Egitto, e anche qui ENAV, il PM accusa tangenti a maggioranza e opposizione, fondi neri e nomine, sistema Finmeccanica. Notizia questa che apre questa mattina la prima pagina invece della Repubblica, così pagavamo i politici, e l'apertura della Repubblica di questa mattina. Nell'inchiesta ENAV spuntano, scrive la Repubblica, anche i nomi di Casini, Matteoli e Alemanno, i verbali del faccendiere delle tangenti, il leader UDC dice io non c'entro, e Lady Guarguaglini non si dimette. Quell'incontro segreto all'Harris Bar per l'azienda amica del ministro di AN, i verbali raccontati da Carlo Bonini questa mattina sul Repubblica. Repubblica che riporta anche le altre notizie che abbiamo visto anche sulle altre pagine dei quotidiani, crolla la borsa, Obama Monti, fiducia nell'Italia, anche qui l'immagine da Piazza Tahrir in Egitto, e poi anche qui Fiat di accordi sindacali, modello Pomigliano ovunque. Il primo test per la Fornero, per la ministro Fornero, il commento che trovate questa mattina sulla Repubblica. Repubblica dalla quale vi segnaliamo anche un'altra curiosità. Ormai manca un mese a Natale, poco più di un mese a Natale, anche qui si comincia la corsa agli acquisti, non solo dei regali ma anche degli alberi di Natale. Ebbene, quest'anno pare che sarà un anno da segnare, un anno in qualche modo a suo modo storico. Natale a corto di abeti, vincono quelli ecologici. Natale 2011, scrive la Repubblica, il grande sorpasso della plastica. Per la prima volta in Italia l'albero sintetico potrebbe accartocciare la tradizione e superare nelle vendite quello naturale. E con questa segnalazione lasciamo almeno per il momento le prime pagine dei quotidiani. Per andare invece negli Stati Uniti, la notizia noi ve l'abbiamo anticipata già ieri mattina dalla stampa americana col nostro sguardo o ai giornali oltreoceano. Ora però è davvero ufficiale, vale a dire, ve l'abbiamo detto, la super commissione antideficit statunitense ha fallito, non ha trovato l'accordo per i tagli alla spesa e per ridurre il debito americano. Non siamo nella situazione della scorsa estate, cioè non c'è alcun default imminente, ha rassicurato il presidente americano Barack Obama, che però è comunque preoccupato e potrebbe anche porre il veto ai tagli automatici previsti in caso di fallimento. Le indiscrezioni intanto sull'imminente fallimento hanno già fatto chiudere in netto ribasso Wall Street. E allora cosa scrive questa mattina la stampa americana? Il Financial Times profila uno scenario che si spera non debba arrivare, però secondo il Financial Times, con il fallimento della super commissione antideficit si rischia quello che si chiama lo shutdown, cioè una chiusura del governo americano già il prossimo mese, una possibilità prevista negli Stati Uniti, quando lo shutdown del governo avvenne già nel 95 sotto l'amministrazione di Bill Clinton, durò 15 giorni durante i quali tutte le attività governative furono sospese. Insomma, in sostanza non è solo l'Europa spaventata dal debito. E allora io saluto Mario Platini. Buongiorno Anna, beh sì, qualche problema ce lo abbiamo anche qua negli Stati Uniti, perché questa cosa che tu annunciavi, il fallimento della super commissione, è all'origine della caduta di borsa di ieri, è all'origine dei problemi che verranno negli Stati Uniti, perché fammi cercare di inquadrare un po' il problema. A un certo punto repubblicani e democratici non sono riusciti a mettersi d'accordo per ridurre il disavanzo pubblico. E dunque cosa hanno fatto? Hanno costituito una supercommissione. Ora tu mi insegni che quando si costituisce una supercommissione è perché si sa già che probabilmente non si concluderà un bel nulla, e dunque così è successo. Ti ricordi, fu il famoso accordo agli inizi di agosto, quando doveva scadere il termine ultimo per il rinnovo del tetto sul debito. Ecco, la supercommissione non ha funzionato, non è riuscita a presentare un pacchetto adeguato. Cosa fecero i politici? Decisero di affiancare all'ipotesi di fallimento di questa supercommissione un pacchetto di tagli automatici che sarebbe partito solo nel 2013, nel gennaio del 2013. Ecco, questo ci mette in una situazione in cui nel 2012 non succederà nulla. È vero che i mercati sanno e possono scontare che dal punto di vista del debito pubblico ci saranno dei tagli per 2.200 miliardi a partire dal 2013, ma nel frattempo le cose restano ferme. Ecco, e dunque ora, Mario? E dunque il mercato ha reagito, e ha reagito male. Perché? Perché probabilmente non ci si riuscirà a mettere d'accordo per il pacchetto di stimoli a breve che voleva far passare Obama, e c'è un fiscal drag di 200 miliardi di dollari, cioè per la fine di quest'anno scadono misure di stimoli pari a circa 200 miliardi di dollari, e che a questo punto non ci saranno più nel 2012. E torniamo al problema centrale, che è quello della crescita. C'è un piccolo avvitamento, anzi un grande avvitamento direi, anche negli Stati Uniti. A questo punto vedremo se Obama riuscirà a rimettere in pista prima della fine dell'anno qualche misura di stimolo, però direi che il mercato sta scontando non soltanto i problemi europei e le fragilità europee e l'impatto che queste fragilità avranno sull'Europa, ma sta cominciando a scontare le fragilità interne al mercato americano, soprattutto sul fronte della crescita, perché il mercato del debito per ora tiene. Grazie. Grazie allora Mario Platero. Ti ritroveremo America 24 alle 13.45. Nel frattempo invece noi parliamo d'altro. Molti argomenti, molti temi, come sempre a prima edizione. Allora do il buongiorno anche a Maria Piera Ceci. Buongiorno, stamattina vogliamo raccontare una storia di scuola molto particolare che ci porta a Milano. Al liceo linguistico comunale Manzoni, infatti, alcuni insegnanti, ad oltre due mesi ormai dall'inizio della scuola, sono stati ingaggiati attraverso un'agenzia esterna, la Talento, con un contratto co-co-co. È la prima volta che questo accade. Questo perché, ne abbiamo parlato tempo fa qui su Radio 24, il patto di stabilità non consente ai comuni di assumere né a tempo indeterminato né a tempo determinato. E l'appello rivolto dal vice sindaco di Milano Maria Grazia Guida al ministro Tremonti per ottenere una deroga per quanto riguarda le scuole non ha mai avuto alcuna risposta, e ormai non ne avrà, visto che Tremonti non è più neanche ministro. Quindi si è dovuto procedere attraverso l'agenzia esterna, anche se questo viene a costare al comune il doppio o almeno quasi, come ci racconta lo stesso vice sindaco Guida. Ma non costa il doppio, comunque ci costa mediamente un terzo in più di quello che ci costerebbe avere del personale nostro. Perché va pagata naturalmente questa agenzia che ha fatto la selezione, evidentemente. È ovviamente un contratto che a noi non piace. Il futuro però è molto incerto, mi sembra di capire. Assolutamente sì, e proprio per questo dobbiamo, non so come dire, non volendo dismettere quest'ordine di formazione, cercare di studiare e inventare nelle normative vigenti le soluzioni possibile. Quest'anno è il problema che hanno avuto tutti gli enti locali. Altri colleghi di altre città hanno preferito chiudere o esternalizzare completamente dei servizi, ecco, noi vorremmo cercare di mantenerli. Quindi o così o chiudere le scuole comunali. L'amministrazione non aveva altra scelta, anche se gli insegnanti hanno meno tutele e uno stipendio inferiore dei loro colleghi, come ci ha raccontato Tatiana Cazzaniga della CGIL. Circa 200-250 euro in meno al mese. È chiaro che qui però la politica dovrebbe metterci un po' di creatività e di coraggio. Io però la Guida parla proprio di creatività, dice se volevamo assicurare un insegnamento a questi ragazzi abbiamo dovuto inventarci, e quindi per quello parlo di creatività, questa formula. Lei si è inventata però una cosa che toglie sicuramente diritti ai lavoratori, che rischia poi di non dare continuità didattica, perché se io trovo un lavoro migliore o se mi chiama lo Stato me ne vado, quindi non è questa la via, ma un coraggio, come dire, di scelta politica attraverso il nostro contratto collettivo nazionale di lavoro. La linea torna a te. Prima edizione. Le 6:34 minuti è il momento delle inchieste di GR24. Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. È il cantautore di Milano per eccellenza, da solo o con i gufi, è uno dei simboli della tradizione musicale lombarda. Stiamo parlando di Nanni Svampa, che ha raccolto per anni la memoria della canzone popolare milanese. Negli anni 70 ha creato l'antologia della canzone lombarda, una delle maggiori collezioni di studio e ricerca sulla storia musicale e dialettale della città. Oggi ha ripreso quel materiale che è diventato una nuova raccolta che si chiama La Milanese. Lo ha intervistato Marta Cagnola. In quegli anni c'era proprio la passione, c'erano queste ricerche sul campo che venivano fatte e pubblicate, magari la vecchia Mondina che cantava canti che ricordava, la vecchia che era andata in Finlandia e così il vecchio minatore, tutti questi documenti sonori poi dai professionisti, come nel mio caso, stati ripresi e comparati e utilizzati quando erano gradevoli da ascoltare. La bella lava al fosso, Ravanei, Remulas, Barbabietore, Spinastre, Palanche al Mas. Ho lavorato prendendo da questa ricerca sul campo, poi dalla memoria di famiglia di mia madre che ci cantava le cose, da quella che da bambino io vivevo in paese, in provincia di Varese, ricordavo le canzoni, canzonette, e poi una ricerca fatta anche poi da noi, una passione per queste cose, si andava nelle ultime grandi osterie di Milano a ascoltare i grandi cantori che ci tramandavano questo patrimonio attraverso la tradizione orale. All'antrua distesi in mesa ai orti, e c'è Eren Rus e un po' sversa. Si cantava questa cosa, una mala un po' romantica, no? Non era una mala spietata come poi è avvenuto negli anni 50, 60, 70. E quindi si cantano delle storie che erano un po' di quartiere, no? C'erano un po' queste persone, personaggi, eccetera. Era una malavita un po', aveva un suo codice d'onore e comunque non facevano le stragi, insomma. Mami, mami, mami, 40 di 40 not, a San Vitura c'ha pai bot, dormi de campi in de malan. Mami, mami, mami, 40. Poi c'è quella parte di canzoni della mala letteraria, quelle scritte da Foe, Streller, con Fiorenzo Carpice, quello che poi cantava da Vanoni, che erano storie scritte, inventate, facevano parte di un gusto, no, per le cose della mala, però canzoni inventate da autori, insomma. Son con te come un rat mi dufera de mat per la felicità. Avete ascoltato la voce indimenticabile di Nanni Svampa su Radio 24, Italia in controluce termina qui, torniamo oggi 13.30 su Radio 24. Daniele Biacchessi, noi voltiamo pagina e con un balzo andiamo invece alle notizie di questa mattina e andiamo in Egitto, al Cairo. Ed ecco, nella notte altri scontri al Cairo, i suoni che arrivano in questi giorni da Piazza Tahrir sono questi. Sono ancora suoni di scontri. È finito l'entusiasmo della primavera araba. Dobbiamo guardare con timore ai nuovi scontri al Cairo. Io saluto, do il buongiorno a Valentina Colombo, docente di geopolitica del mondo islamico all'Università Europea di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, dunque, i fatti innanzitutto. Si parla ormai di 40 morti, anche se quelli ufficiali sono 22. Si parlano di almeno 1.500 feriti. I dimostranti sono tornati in piazza Tahrir, hanno piantato nuovamente le loro tende, sono stati schierati carri armati a difesa del Ministero dell'Interno. I militari ritengono in sostanza che l'esercito voglia mantenere il potere e non voglia lasciare. Che succede? Secondo lei, appunto, è finita la primavera araba e si è aperta così la nuova pagina? Diciamo che in Egitto si parla ormai già di una seconda rivoluzione da attuare. Secondo me bisogna ricordare il perché di questa ulteriore discesa in piazza Tahrir, una delle piazze principali del Cairo in pieno centro, la piazza che lo scorso gennaio appunto ha visto nascere la rivoluzione del loto, cioè si tratta di una protesta nei confronti della bozza dei dettami, delle regole super costituzionali della prossima Costituzione che, non dimentichiamoci, lo scorso marzo è stata votata come Costituzione da emendare, non da riscrivere. Che cosa è successo? È successo praticamente che tutti coloro, tutte quelle forze che ai tempi del referendum avevano sostenuto gli emendamenti, quindi l'esercito al potere, i fratelli musulmani e tutto quello che era il vecchio apparato, si erano schierati a favore di questa riforma, non di una riscrittura della Costituzione. Questo documento, reso pubblico, documento al SEMMI, reso pubblico il 1° novembre scorso, che dà un po' il contesto di quello che sarà la prossima riforma della Costituzione, praticamente non fa altro che consegnare, confermare al Consiglio Supremo delle Forze Armate, ovvero all'esercito, totali poteri. Quindi anche tutti coloro, come i fratelli musulmani, che avevano votato a favore del referendum, oggi si ritrovano contro il governo e sta succedendo qualcosa di veramente incredibile, cioè ritroviamo in piazza una manifestazione organizzata prevalentemente dal Movimento dei Fratelli Musulmani, accanto a loro troviamo i liberali, ovvero l'Egitto sta dicendo no ad un'altra dittatura. Ancora una volta un movimento comunque trasversale per un dopo che sembra non arrivare, o perlomeno procedere diversamente da come avrebbero voluto i manifestanti. Sono le stesse persone in piazza Tahrir? Ma io credo di no. Allora, perché non dimentichiamoci che il gennaio scorso sì, avevamo visto tutti in piazza, avevamo visto ragazzi, avevamo visto fratelli musulmani, avevamo visto i copti. Questa manifestazione ha un sapore diverso, è innanzitutto organizzata e voluta prevalentemente da tutto l'ambito legato all'estremismo islamico. È chiaro però che in questo momento, tranne tutto ciò che è vecchio potere, tranne il partito di sinistra, Gammo, tutti sono in campo per dire no ad un'eventuale ennesima non democrazia. Non dimentichiamoci però che questo passo, questo documento al SEMMI, appunto reso pubblico lo scorso 1° novembre, a mio parere è un mettere le mani in avanti da parte delle forze armate per una scontatissima vittoria alle elezioni da parte dei fratelli musulmani e dei movimenti islamisti. Nei movimenti islamisti, quindi diciamo entrambe le vie comunque hanno qualche modo dei loro rischi geopolitici, mettiamola così. L'Egitto è stata un po' la scintilla la primavera scorsa, un po' per tutti gli altri. Anche in questo caso, secondo lei, sta segnando una strada che rischiano di percorrere anche gli altri paesi arabi? Ma diciamo che in Tunisia, dove si sono avute di recente le elezioni che hanno visto appunto un 44% schiacciante al movimento al-Nahdar legato ai fratelli musulmani, anche in Tunisia c'è scontento da parte dei movimenti laici, dei movimenti femminili, delle associazioni femminili, questo sì. C'è da dire che in questo caso forse l'Egitto vive una sorta di unicum, diciamo, tra i paesi post-rivoluzionari, perché la situazione, ovviamente la condizione della situazione dell'Egitto è totalmente diversa da quella della Tunisia. Ovviamente lo scenario egiziano io credo che possa essere molto simile ad un futuro scenario siriano, perché anche lì abbiamo questa, i fratelli musulmani e questa gioco. È un'altra partita grossa, se ne discuterà tra l'altro questa sera all'ONU, e quindi della Siria avremo modo più avanti sicuramente di parlare. Grazie nel frattempo per questo scenario. Valentina Colombo, docente geopolitica del mondo islamico all'Università Europea di Roma, per essere stata con noi, buona giornata. Buona giornata a voi, arrivederci. Prima edizione. E noi torniamo 6 e 46 minuti. Prima edizione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Abbiamo parlato dell'Egitto, di quello che sta succedendo questa mattina. Ne parleremo tra pochissimo anche in GR24. Vi racconteremo come va questa giornata. Ma quella che vogliamo aprire adesso è una parentesi completamente diversa, che riguarda tutti noi quando usciamo di casa, andiamo al supermercato, al mercato, andiamo a fare la spesa e portiamo qualcosa sulla nostra tavola. Perché? Perché oggi viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento comunitario sulle informazioni alimentari ai consumatori, in sostanza le regole europee sulle etichette, con l'obiettivo di rendere più facilmente leggibili. Cosa cambia? Quando cambierà per quanto ci riguarda? Saluto Roberto Lapira, direttore responsabile di ilfattoalimentare.it. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Già vi dico che il fattoalimentare.it pubblica oggi anche un ebook di 50 pagine scaricabile se volete saperne ancora di più, ma intanto qualcosa cominciamo a raccontarvelo anche noi, e cominciamo anche col dirvi che se la primavera scorsa parlavamo dell'obbligo d'etichetta d'origine votata bipartisan nel Parlamento italiano, dimenticatevela, perché da oggi invece bisognerà adeguarsi alle nuove norme europee, giusto? Esatto, quella che è stata votata dal Parlamento in modo bipartisan era un po' una bufala, dobbiamo dirlo, anche se qualcuno fatica a capirlo. Per cui quello che conta in Azzeriamo Europa, tutto, ora conta l'Europa. Assolutamente, sempre contate l'Europa. Per allora, cui, cosa dica. Ci chiede l'Europa? Come saranno queste nuove etichette? Beh, per quanto riguarda l'origine, innanzitutto dice che entro 2 anni ci sarà l'obbligo di indicazione della provenienza, quindi dell'origine, per la carne suina, la carne ovina, la carne caprina e il pollame, e questo è quanto succederà. Oltre a, diciamo che l'origine è già una è già legge per quanto riguarda la carne bovina, il pesce, la frutta, le uova. Sugli asci anche dei monti scandali alimentari in Europa, ovviamente. Certo. Questo è stato fatto 20 anni fa, dopo la mucca pazza si è iniziato a indicare l'origine per la carne bovina. Ora varrà per avanti. Tutto? No, varrà solo per queste cose, per la carne suina, la carne ovina, la carne caprina e pollame. E nei prossimi anni si andrà avanti. Questo è quanto dice la Comunità Europea. Invece la legge italiana prevedeva che deve diventare obbligatorio per tutto. Non è così, queste sono regole europee e vanno rispettate. Ma le novità che ci sono su questa nuova normativa su etichette sono veramente tante, è una piccola rivoluzione. Io mi soffermerei soprattutto sulle dimensioni delle diciture sulle etichette. Ormai i caratteri tipografici degli ingredienti, delle altre voci, dovranno avere almeno 1,2 mm e questo è molto importante. Quindi li leggeremo più facilmente. Assolutamente, soprattutto chi ha più di 40 anni mette gli occhiali come me. Un'altra cosa evidenziata, secondo me, sono gli allergeni. La legge obbliga, ci sono di 11 tipi di allergeni che devono essere obbligatoriamente indicati in etichetta, il latte, le uova, la soia, eccetera, eccetera. Bene, in questo caso qui la normativa europea dice che devono essere evidenziati o in grassetto oppure addirittura con il colore. Questo è un problema abbastanza serio, perché le persone allergiche sono in aumento continuamente e questa indicazione. E spesso bisogna andare a cercare nell'etichetta se c'è un'indicazione, invece sarà evidente. Certo, perché metteranno in grassetto in colore, e che non è poco. Un'altra cosa importante riguarda, per gli appassionati di oli, la scritta oli e grassi vegetali, che finora non è lasciata così, nel senso che basta scrivere oli e grassi vegetali e dice: ma che tipo di grasso si trova? Che tipo di olio è? Soia, palma, arachide, un olio di qualità o meno? Beh, d'ora in poi dovrà essere abbinata la scritta oli e grassi vegetali al tipo di olio utilizzato. Un capitolo importante è quello della tabella nutrizionale. La gente che fa la spesa e compra i prodotti e guarda con attenzione sa che ormai molti prodotti hanno la tabella nutrizionale, ovvero una tabella dove si indicano il valore calorico, i grassi, le proteine, gli zuccheri, eccetera, eccetera. Beh, la nuova regolamento europeo prevede che sarà obbligatorio per tutti gli alimenti confezionati. Qualunque alimento dovrà averlo, quindi non solo a discrezione di chi lo produce, ovviamente. Certo.